Oh, ma lo sai che quei matti d'Onda Rossa stanno organizzando un altro concertone anche alla SNIA? Ma davvero? Quando lo fanno? Il 26 giugno. Sì, vabbè, ma chi suona? I The Wild dalla Gran Bretagna, un gruppone dove suonano gli ex dei Discharge e dei Brother Bones, i Baruchers e i Disorder. Ah, mi vedi? E poi? E poi suonano pure i Nofu da Roma e i Razza a Parte da Viterbo. E c'è sta pure Apostasia che mette i dischi. Ma davvero? Venerdì 26 giugno, in sottoscrizione Radio Onda Rossa. Centro sociale occupato autogestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173. Dalle ore 21. Cena sociale, musica, stand di Radio Onda Rossa. E da bere? Ma davvero?